Economia in pagina. Buonasera, questa sera parliamo di economia al massimo livello, direi, parliamo dell'economia dei premi Nobel e ne parliamo con il professor Roberto Fini. Buonasera professor Fini. Buonasera dottor Fabi. Roberto Fini collabora da molti anni alla cattedra di microeconomia per l'Università di Verona, è stato docente della Scuola Superiore di Economia del Veneto, si è occupato di formazione e attualmente presidente dell'Associazione Europea per l'Educazione Economica e ha scritto questo libro per le edizioni Oepli in cui non c'è solo un ritratto dei grandi economisti che hanno vinto il premio Nobel, ma si fa appunto, si approfitta di questi economisti per tracciare un percorso delle idee dell'economia negli ultimi 40-50 anni. L'economia letta attraverso i vincitori del prestigioso premio, questo è il sottotitolo del libro. Allora, Roberto Fini, qual è l'ambizione di questo libro? Quella di spiegare l'economia a chi l'economia non la sa? Beh sì, quando si scrive di economia l'ambizione fondamentale è sempre questa, quella di far capire ai non addetti qualche aspetto fondamentale dell'economia stessa. Nel caso specifico ho usato un espediente, invece di tracciare un quadro della teoria economica in maniera storica nell'evoluzione del pensiero economico, ho pensato di usare un ragionamento più per spot, partendo da alcuni degli economisti che hanno vinto il premio Nobel, cercando di far comprendere come si inserisce ciascuno di loro nel complessivo contesto della teoria stessa. Non sono sicuro di esserci riuscito, anche perché è chiaro che in questo modo si spezzetta il ragionamento, però è un modo, ritengo, un po' più accattivante per ragionare su questi temi. Ecco, il percorso è quello che mette a confronto un po' la logica degli economisti di mercato, quelli che lei chiama i pellerinisti, quelli di Mont Pelerin, sì, quelli che è legati molto alle teorie appunto di Hayek, e dall'altra parte la logica più di apertura allo Stato, all'impegno sociale, che è un po' di Keynes. È un po' questo il confronto che avviene a grandi linee nel pensiero economico degli ultimi anni? Sì, questo è senza dubbio vero, ci sono molti aspetti esterni a questa duplicità, soprattutto negli ultimi anni, però anche a scopo didattico ho cercato di contrapporre queste due tesi, che poi in realtà sono meno contrapposte di quanto si possa vedere o pensare, però certamente fra gli economisti cosiddetti liberisti, cioè quelli che ritengono che il mercato funzioni in maniera pressoché totale, anche se in realtà ci sono molte differenze anche fra di loro, e quelli che ritengono invece che lo Stato, l'intervento pubblico, debba sopperire ai fallimenti del mercato, questa duplicità esiste naturalmente. Esiste da quando Keynes ha cominciato a ragionare sull'intervento pubblico e non ha mai smesso di esistere come la contrapposizione forse fondamentale. Negli ultimi anni è andato evolvendosi un pensiero eterodosso che prende in considerazione gli aspetti diversi, diciamo. Ecco, in questa prospettiva c'è anche un confronto tra gli economisti, diciamo così, più matematici, più legati ai modelli teorici, ai modelli che fanno riferimento appunto a delle regole, alle leggi dell'economia, e gli economisti un po' più sociali, tipo Amartya Sen, che danno più spazio appunto alla dimensione delle scelte personali, delle scelte collettive, delle scelte motivate non solo da elementi economici, ma anche da elementi etici e morali. Negli ultimi anni soprattutto è andato emergendo questo pensiero nuovo, più originale, che non rinnega le vecchie tesi, le vecchie intendo più tradizionali tesi, però le integrano con sviluppi nuovi, diversi, sicuramente più fecondi. C'è la parte degli economisti matematici, alcuni dei quali hanno vinto il Nobel proprio per il loro contributo in questa direzione. C'è la parte degli psicologi, per esempio Kahneman, che tratta la cosa da tutt'altro punto di vista, e poi ci sono i vari Sen o altri autori che tracciano un quadro più sociale dell'economia. Sono tutti apporti. Il mio fine era quello di non dare una versione definitiva dell'economia, ma quella di ragionare sullo spessore che l'economia stessa ha finora espresso, anche quando i singoli autori sono stati apparentemente monotematici. Ecco, in questa prospettiva proprio il premio Nobel è forse un esempio di questo, un esempio di un premio che è andato un po' ondeggiando tra le diverse formule dell'economia, certamente non per cercare una definizione, ma per premiare gli uni e gli altri, per sottolineare l'importanza di tutti gli elementi che hanno composto l'economia. Uno degli ultimi capitoli è un po' un bilancio parziale dei primi 40 anni del Nobel. Qual è questo bilancio? Beh, il bilancio è tutto sommato positivo, è chiaro che appunto c'è stato un ondeggiamento, il Nobel, l'attribuzione del Nobel ha corrisposto anche a mode teoriche diverse. Questo non è in sé un male, perché è chiaro che il ragionamento prevalente in un dato momento poi esprime anche i teorici di maggior spessore. Questo è poco ma sicuro. Direi che però questo ondeggiamento va letto in maniera positiva, soprattutto poi negli ultimi anni, rispetto alle due correnti che citavamo prima, si sono aggiunte in molti aspetti diversi, di maggior spessore, con un approccio anche diverso rispetto a quello tradizionale. Citavo prima Kahneman. Cito gli ultimi tre Nobel, quelli del 2013, che apparentemente si riferiscono all'economia finanziaria, ma con approcci talmente diversi da poter dire che tutto sommato il premio Nobel è stato attribuito a persone con sistemi mentali e teorici molto diversi, ma che in qualche modo hanno ragionato sugli stessi temi, quelli appunto dell'economia finanziaria. Ecco, c'è una tabellina in fondo, proprio nelle ultime pagine di questo libro, che parla della distribuzione geografica dei vincitori del premio Nobel. Sì. Su 76, 44 sono americani, 6 sono del Regno Unito e gli altri si dividono appunto tra tutti gli altri paesi. Una grande prevalenza del pensiero anglosassone. Questo nasconde qualcosa o è un po' una sudditanza dell'Accademia delle Scienze svedese che deve dare questo premio un po' al pensiero dominante? Ma non sono sicuro di poter rispondere con certezza. Diciamo che certamente il pensiero anglofono, americano in particolare, ha espresso teorici di notevolissimo livello e quindi questi sono stati normalmente premiati. Lo stesso anche per quanto riguarda l'economia inglese. Non credo ci sia una vera e propria sudditanza. In questo momento è probabilmente ancora vero che i centri di ricerca più importanti sono negli Stati Uniti, Harvard naturalmente, Chicago, Princeton, Berkeley secondariamente, insomma sono in questo momento ancora oggi i punti di riferimento costanti. Dopo ci sono le grandi università inglesi che si appaiono ai centri di ricerca americani. E in fondo non credo sia una sudditanza, credo che sia la presa d'atto di una prevalenza della modalità di ricerca che riguardano questi autori. In fondo anche l'unico premio Nobel per l'economia italiano, Franco Modigliani, è un premio Nobel dato peraltro all'università americana, perché Modigliani ha lavorato a lungo, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, negli Stati Uniti. Sì, questo si può leggere anche come una fuga di cervelli ante litteram che riguarda un po' gli economisti, ma riguarda anche tutti gli altri ricercatori italiani, tra l'altro alcuni vincitori di premio Nobel in fisica o altro. Ripeto, è un dato di fatto che ancora oggi non riusciamo a scalzare. Questo dovrebbe farci pensare, almeno nell'Europa continentale, che si debba fare un salto di qualità dal punto di vista della ricerca in ambito economico, per quanto mi compete. Ecco, in questo senso possiamo avere come prospettiva di avere un premio Nobel italiano in futuro? Beh, oddio, la prospettiva c'è sempre. Ne dubito in questo momento. Da quello che si legge sulle riviste scientifiche ancora oggi in Italia e in Europa continentale c'è poco da sperare in questa direzione. Chiaro che poi possono emergere correnti di pensiero o singoli autori che meritano e vengono premiati con il premio Nobel. La ricerca italiana è di buon livello, non è ancora tale da sfondare le porte che poi portano al premio Nobel. Potremmo dire, per concludere, che forse anche perché l'economia italiana non è un bel esempio di fronte a un'economia globale e internazionale. L'economia italiana non è certamente un bel esempio. Il problema può essere che però anche dai cattivi esempi si possono trarre buone certo. indicazioni per la ricerca. Per ora non ci sono, ma forse il problema principale è una strutturale, direi, carenza di fondi ben impiegati. Grazie mille. Grazie mille a Roberto Fidi. Abbiamo parlato con lui del suo libro, il suo ultimo libro, appena in libreria da qualche giorno, delle edizioni Oepli, Economisti da Nobel, l'economia letta attraverso i vincitori del prestigioso premio. Sono 250 pagine per 16,90 euro ed è appunto una rassegna del pensiero economico attraverso le figure degli economisti che hanno vinto il premio Nobel. Grazie e complimenti a professor Fini, grazie anche a Pietro Lacorte in regia e a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.